24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, perché è illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto dalla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere il suo compito di custode dei diritti e delle libertà comuni fino alla fine del suo mandato. Preghiamo. Preghiamo per il nostro Presidente del Consiglio che domani compierà 40 anni. È giunto alla maturazione della prima giovinezza, perché il Signore l'assiste in un compito difficile, lo vediamo, e speriamo che il suo coraggio e la sua forza possano arrivare a buon fine. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Abbandono definitivamente tutta la retorica giovanile o presunta tale. Entro negli anni, da cui notoriamente è difficile che se ne esca vivi. Ascoltaci, no, no, no, lì non c'entrava. Chiedo scusa, ero trasportato dal vescovo di Bologna che... Buongiorno, cari italiani, parte oggi l'89esima settimana decisiva per la riforma elettorale e anche decisiva per l'abolizione delle province, 89! Com'è che dice la paura fa 90? Ma forse ci arriveremo alla 90esima settimana decisiva. A oggi attenzione, perché oggi sono iniziati anche gli articoli. Pensate un po', tutto il mondo guarda Parigi e noi tra due giorni saremo pieni sui giornali di articoli dedicati all'elezione di un presidente della Repubblica. Oggi è iniziata già la settimana decisiva delle dimissioni di Napolitano. Domani saluta i corazzieri. Mercoledì si dimette. Questo è il timing, eh? Vabbè, oggi iniziamo così un po' sacri, un po' altisonanti, no? Così questa settimana importante, decisiva, per l'appunto alle 6:31 minuti, questa è 24 mattino, buongiorno a tutti voi, eh? Saluto Lorenzo Nespoli qui in redazione, c'è anche il nostro alpino Peter Bescapè in regia, qua cerco di sistemarmi il computer, allora fammi scrivere queste cose, eccoci qua. Tutto pronto? No, perché io arrivo, sono il primo al mattino che va in onda in diretta qui e ci sono gli studi. Devo ricomporre un po' le cose. Ecco, la schermata è pronta. Eccoli qui, le telefonate. Va bene, c'è tutto. Allora, gli ospiti sono lì, li vedo benissimo. Il Parlamento può aprire? Dai, ci siamo, forza. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Grazie. Parlamento. Siamo qui, parleremo certo anche di quello che è successo a Parigi, come no, 2-3 milioni in piazza contro questi attentati terroristici, 3 giorni che hanno sconvolto Parigi, l'Europa, il mondo. Io sono qui attorniato da Gobbi, non lo so perché mi succede sempre il lunedì, oh mamma mia. Ma porca, ma chi è questo? basta. Chi è l'inno della Juve? Ma è cambiato. Sarà ancora la storia di tutti. Mamma mia, ragazzi. Questo è l'inno della Juve. Chi è che rialza? Saluto Andrea Sarubbi. Grazie per l'ottima sveglia. Questo era il modo migliore per farmi cominciare la settimana. Andrea Sarubbi e Federico Novella. Buongiorno, Federico. Buongiorno. Vedo che hai cambiato sigla. Vedo che sei finalmente dalla parte giusta. Mamma mia. Si fa per esorcizzare, per farvi sentire quanto è brutto, in realtà quanto è brutto, per farvi sentire quanto è brutto l'inno della Juve. È bellissimo, grande Paolo Belli. Mamma mia, ragazzi, se poi un giorno ho scoperto che la cantava anche Paolo Belli, uno che insomma... L'ha scritto Paolo Belli. L'ha scritto proprio, proprio brutto, scritto e cantato. Mamma mia, ragazzi, ma gli inni delle squadre di calcio sono orrendi, eh? Cioè non esiste un inno di una squadra di calcio. Ma infatti si è vista la differenza ieri sera. Quando a Napoli hanno cominciato la partita cantando Napolè, è stata una cosa fantastica, meravigliosa. E io ho pensato, ma perché non mettere una canzone vera prima dell'inizio delle partite sempre? L'unica che la fa ogni tanto è la Roma, no? Che lo mette alla fine, credo. Grazie Roma, certo, sì, quando vincono. Beh, ogni tanto quando c'è una canzone vera, insomma, è più bella. È vero. Va bene, allora, noi siamo qua con Federico Novella, Andrea Sarubbi, il buon Federico. Che fai? Sei in viaggio sempre per me? No, in tangenziale nord, verso Cologno. Come va il traffico? Traffico un po' più sostenuto del solito, come ogni lunedì, devo dire. Guardati intorno, perché Alfano ha detto che chiunque abbia qualcosa da segnalare deve subito informare le autorità. D'accordo, oggi mi sento un po' 007 mentre vado al lavoro stamattina. C'è qualche macchina sospetta? Qualcosa che sembrano esattamente uguali al solito queste macchine, però... Tengo gli occhi più aperti del solito. Bravo, fai così. Ecco. Benzina, tutto a posto? Benzina, tutto a posto. Siamo pronti per una nuova settimana. Vabbè. Allora, dai, vogliamo partire. Partiamo da quello che è successo a Parigi. Anche se, io devo dire una cosa, la solita cosa un po' scomoda. Io queste cose, non so se Andrea Sarubbi adesso mi bacchetterà subito, ma queste storie di Je suis là, Je suis su, Je suis giù, Je suis Catherine Deneuve, non ti piacciono? Ma insomma suonano un pochino retoriche. Un po' ipocrita. Ma no, un pochino retoriche. Je suis, no, no, je suis Charlie, no, je suis Ahmed, no, je suis Lassana, no, je suis Parisien, no, je suis... dai, su, Andrea, tu... Anch'io, insomma, devo dire, non sono particolarmente, posso dire, commosso da questo tipo di solidarietà. Mi piace molto invece l'idea che finalmente l'Europa si ritrovi in un posto, in un luogo fisico, in un posto comune, che i leader abbiano lasciato tutto quello che avevano da fare, perché c'era qualcosa più importante degli affari di casa loro, che si chiamava appunto continente, paese comune, cosa che appunto negli Stati Uniti accade abbastanza spesso e che da noi invece non accade. Questo sì, non bisogna buttare tutto, no? E la manifestazione di ieri secondo me è una cosa importante, cioè far vedere 2-3 milioni di persone, i grandi leader, sono venuti tutti, mancava solo Obama, qualcuno l'ha fatto notare, dagli Stati Uniti. Forse Barack Obama, un piccolo aereo, potevi anche prenderlo a venire qui a Parigi, visto che noi ci siamo sentiti sempre molto vicini, giustamente, all'America colpita. E Obama, boh, chissà dove. E poi se posso, potevano pure invitare la Marine Le Pen, sicuramente. Hanno lasciato a casa il primo partito di Francia, un francese su 4 non si è sentito rappresentato da quella piazza. Anche questo mi sembra una cosa totalmente sbagliata. Infatti non ho neanche capito da dove è nata questa esclusione, cioè me la sono perso il momento in cui tu, Federico, non c'è stata una certificazione, però se la Le Pen dice non sono gradita a Parigi e nessuno la smentisce, ha ragione. Evidentemente è andata esattamente così. Però questa è una grande ipocrisia. Se andiamo in piazza per celebrare l'unité e la fraternité, tu mi inviti tutti, specialmente al primo partito di Francia, ripeto. No, ma non c'è dubbio, certo, si sa che Marine Le Pen ha delle posizioni abbastanza, no, abbastanza dure, un po' simili a quelle che ha manifestato Salvini. Erano dure anche le posizioni di Charlie Hebdo, siamo qui per difendere tutti, no? No, ma infatti è stato assolutamente sbagliato il fatto di escludere qualcuno, Marine Le De Pen credo che abbia fatto una manifestazione in un paesino con mille persone, sì, in provincia, eccetera. Quindi vabbè, Andrea, però giusto il fatto che ci sia stata questa manifestazione, questo sì. Tu come la vedi questa questione di scontro di civiltà, scontro di religioni? Ma questo è il ritornello che si sente ogni volta che c'è una cosa del genere. Io insomma credo di essere tornato indietro come tanti di noi, no? Con le lancette all'11 settembre, ma prima ancora, insomma, quante volte abbiamo sentito parlare di queste cose e poi alla fine abbiamo visto che lo scontro di civiltà nella vita quotidiana non c'è, non esiste. Purtroppo esiste il fatto che ci sono dei fondamentalisti che utilizzano la propria fede religiosa per invece perseguire scopi politici, ma questo è altro diverso. Mi viene in mente Benigni, visto che avete cominciato col vescovo di Bologna, cosa che mi ha fatto molto ridere, ma era veramente così o era ascoltaci, signore. No, è certo che era così, in che senso? Io me la sorpresa, eppure come sapete, insomma, diciamo nell'ambiente sono abbastanza impegnato, ma mi ero perso la preghiera dei fedeli. Vabbè, ma no, cioè con Renzi, lì c'era lì Renzi di fronte, era una inaugurazione che era a Granarolo, un'inaugurazione di un. E niente, ha fatto questa invocazione per la politica. Chi va in chiesa la domenica sa benissimo che nella messa, nella preghiera dei fedeli, c'è sempre una preghiera per i governanti. No, ma non era messa, era l'inaugurazione della Granarolo. Ma poi ad persona me non l'avevo mai sentita, cioè invece in generale è così, un po' più vaga. Vabbè, comunque, detto questo, mi viene in mente Benigni, quando Benigni ha fatto i 10 comandamenti, no? su Rai 1, e spiegava che cosa voleva dire il secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano, mm-hmm. E l'ha spiegato molto bene, no? Dicendo che non nominarlo significa non usarlo, e pochi giorni dopo appunto ci siamo ritrovati in mezzo all'ennesima polemica. Io ieri ho fatto un'intervista, ho raccontato una storia per il giornale del Gruppo Espresso di due ragazzi, Sumaya Abdelkader, due ragazzi milanesi, Sumaya Abdelkader e Abdallah Kebakebji, lui dentista, lei è insegnante di arabo dalle suore Marcelline a Milano, mm-hmm. alla sua terza laurea, italiana, nata e cresciuta in Italia, ma purtroppo diventata italiana con la cittadinanza soltanto a 31 anni, pur non essendosi mai mossa dall'Italia, e lei mi raccontava, Sumaya, che a scuola le ragazze, anche loro musulmane, gli dicono: ma è possibile che nessuno si accorge che quelli che hanno più paura siamo noi? Nessuno si accorge che anche noi siamo le vittime. Sì, questo sì, però io insisto andando un po' controcorrente, ma in realtà molti, non so, Galli della Loggia ne ha parlato, Pane Bianco oggi ne scrive sul giornale, sul Corriere della Sera, sui vari giornali ci sono posizioni simili, cioè possiamo fare finta, continuare a far finta che abbiamo alcuni problemi con la radicalizzazione di quella specifica religione? Voglio dire, secondo me non possiamo, no? Noi dobbiamo partire dal fatto che una vignetta come quelle per cui il direttore e i disegnatori di Charlie Hebdo sono stati uccisi nei paesi islamici sarebbe stata punita, ma non dai terroristi. Io faccio un disegno di quello, mi portano avanti a un tribunale del popolo, mi processano per direttissima e probabilmente mi mettono in carcere. Ma non hanno appena dato 50 frustate in pubblica piazza a un blogger perché ha scritto qualcosa che non è conforme alla Sharia? Ma voglio dire... Senza fare un giudizio sui singoli credenti musulmani, dobbiamo raccontarci che in nessun paese islamico c'è libertà di parola, in nessun paese islamico c'è libertà di satira. E finché non ce lo raccontiamo, noi non riusciamo a capire la differenza che c'è tra queste due civiltà. No. Non è vero, perché ieri c'erano in piazza i rappresentanti della Tunisia, tanto per fare un esempio, insomma, cioè c'erano. Sì, ci sono paesi un po' più. Non è assolutamente così. È vero che in questo momento storico c'è l'Islam che sta vivendo una spaccatura enorme al proprio interno, che è dettata dal fatto che c'è un pezzo di Islam che estremizza. Questo pezzo di Islam è andato al potere in determinati paesi, le stesse primavere arabe che tanto avevano illuso in certi casi, purtroppo, io lo dico con grandissimo dolore, purtroppo si sono rivelate una delusione per gli stessi musulmani in buona fede, che si erano impegnati pensando di liberare il proprio paese. Quello che sta accadendo in Siria è sotto gli occhi di tutti. Che ci sia un Islam più radicale di un altro Islam lo capisco, ma ripeto, una vignetta su cui viene raffigurato e preso in giro Maometto può essere pubblicata? Secondo me no, da nessuna parte. Ma no, quello che chiaramente no, viene considerata blasfema. Poi è chiaro che non è, io sono contento che vengano in piazza alcuni leader, se fossi stato in piazza con loro gli avrei detto cominciamo a scendere in piazza anche nelle vostre piazze. No, a Riyadh, una bella manifestazione a Riyadh. Cominciamo a scendere in piazza, ma ci vengo anch'io se scendete in piazza a Riyadh, capito? Vabbè, auguri a Federico Novella. Che... no, comunque... io in generale, vieni con me naturalmente. Sì, certo, ovvio. Vabbè, intanto le polemiche politiche qui ci sono, la nuova idea è questa, bisogna sospendere Schengen e ripristinare i controlli di frontiera, guardate che questo è il prossimo fronte europeo, vabbè lo chiede Marine Le Pen, lo chiede Salvini, ma lo chiede anche il ministro dell'interno spagnolo e se ne discute, e per l'Italia invece Schengen è una conquista di libertà. A proposito di Salvini, sentite Salvini sui controlli alle frontiere, Bisognerebbe reistituire subito dei controlli alle frontiere, ma per tutti, italiani, europei, extracomunitari, sospendere qualsiasi operazione di arrivo di nuove persone senza documenti, senza passaggio. Vabbè, sospendere tutti, ma soprattutto Salvini, poi il pacato Salvini, dopo questa vicenda, la vede così sull'integralismo islamico. Però purtroppo l'integralismo islamico è il peggior nazismo. O il peggior comunismo, scegliete voi una dittatura che elimina fisicamente chi non la pensa come loro. Eccola lì, la tocca piano, come si suol dire in questi casi. Vabbè, dobbiamo ripristinare i controlli delle frontiere, io non lo so, ma c'è non lo so. Però certo è che, adesso non so se questa è la soluzione, però servono soluzioni che in qualche modo non ci aspettiamo. Cioè, se è vero che siamo in guerra, servono delle regole che potranno anche pesarci, naturalmente senza esagerare, non dobbiamo diventare uno stato di polizia. Però qualcosa di forte ci vuole, secondo me. Non basta, cioè servono le manifestazioni oceaniche di piazza, sono belle, rappresentano un bel messaggio, però poi ammainate le bandiere, bisogna cambiare qualche regola, secondo me. Sì. E qualche regola verrà anche cambiata. Tu Sarubi, da ex parlamentare, avresti votato una bella stretta su... No, non l'avrei votata per una serie di motivi. Intanto, vabbè, il tema in tutti questi casi, ogni volta, è tu sei disposto a rinunciare a un po' di libertà in cambio di un po' di sicurezza, no? Questa è la domanda classica. E se arriva un punto in cui lo scambio non è più conveniente. Credo che siamo noi già abbastanza vicini a questo punto, pensiamo alle difficoltà adesso di imbarcarci, di prendere un aereo, no? Le lunghe file, eccetera, eccetera, quella è stata una cosa che dopo l'11 settembre abbiamo fatto tutti quanti abbastanza volentieri, pur smadonnando, adesso guardiamo in aeroporto, perché sì, è diventata, no, una cosa molto lunga e non molto piacevole, però per la nostra sicurezza lo facciamo. Detto questo, allora, per queste cose si può fare. Rinunciare a delle conquiste di libertà significherebbe allora non usciamo più di casa, no? Perché così nessuno ci farà mai un attentato, oppure abbiamo un poliziotto di condominio, meglio ancora un poliziotto di pianerottolo, così siamo tutti tranquilli e viviamo meglio. Secondo me, arrivati a un certo punto non si può più rinunciare alle proprie libertà, perché sarebbe un cedere questo qua, quindi un po' si vive col rischio, però un rischio che a mio parere doveva essere affrontato anche meglio dai servizi segreti francesi, se posso dirlo. Cioè, io ho visto una grandissima risposta della Francia al popolo, una grandissima risposta anche, insomma, se vogliamo, della mobilitazione, quando poi però il danno era fatto. Sì. Se però poi tu senti dire che l'Algeria aveva abitato, eccetera. Vabbè, la prima è stato un disastro, ma dai, erano sulla no-fly list degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, cioè circolavano liberi. È stato un disastro. Questo sì. 24 mattino. Ma perché ti meravigli se il giorno della strage di Parigi al Parlamento italiano hanno discusso della legge elettorale? Hanno solo approfittato del momento di distrazione per far passare qualcosa a nostra insaputa, come l'hanno già fatto in passato. Volevo mandare questo messaggio al menestrello fiorentino. Stai facendo delle figuracce. Proprio meschine. Cioè, uno ti ha dato fiducia e poi sotto sei più fragile di una pera cruda. Le pere crude sono le pere quando cascano e marciscono per terra. Milan, sei il campione del paraculismo giornalistico italiano, sempre prono a quei 5 stelle. Ciao, caro. Caro Milan, tu sei libero di pensarla come vuoi sulla pena di morte, è ovvio, e allora anche noi possiamo pensarla come vogliamo. La maggioranza vuole la pena di morte, te fai i cazzi tuoi, o ti fa vedere la democrazia come la vuoi te, calzata a tua immagine e somiglianza? Assolutamente no. Sarò un vigile urbano di Roma, che mi sento tanto male, tutte queste alugne, tutte queste accuse, ma io sto male, ma perché non mandate il dottore a controllarmi, che mi trova col pigiamino che sto tanto male? Io c'ho pure il raffreddore, ho preso la tachipirina, ho preso l'aspirina e mia moglie mi ha fatto il brodo di gallina. Straordinario questo vigile urbano di Roma, per me è malato. Federico, yeah, tu... Alberto Sordi, yeah. Per me è malato, per te Sarubi, tu ne vedi in giro, sono malati i vigili a Roma. No, i vigili stanno bene e stanno e bene. Lavorano, come stanno ma bene? Protestano, ma protestano. Ma per dirvi quanto danno abbia fatto questa vicenda, da una parte e dall'altra, nel senso sia come forma di protesta, sia come strumentalizzazione della protesta stessa, perché veramente è stato un momento di follia pura da entrambe le parti. Allora io ero a Città di Castello verso la fine dell'anno e a un certo punto con grandissima intelligenza mi metto un pezzo di vetro nell'occhio, cioè nel senso che mio figlio aveva rotto un bicchiere e io tocco un pezzo di vetro nell'occhio. Genio vero. Vado al pronto soccorso, sì. E l'oculista sente l'accento romano, perché c'è fatto la visita di controllo due giorni dopo dall'oculista, il quale sente l'accento romano, la prima cosa che mi dice è: oh, se sei in vigile ti faccio il certificato. Ho pensato che un danno grosso era stato fatto. Abbastanza. Noi alle 8:15 parleremo di assenteismo nella pubblica amministrazione, non solo i vigili, sono le scuole. Ce n'è una scuola ad Agrigento dove il 40% hanno la legge 104, per carità, legge sacrosanta per assistere i familiari malati, ma lì insomma c'è una percentuale abnorme. Vabbè, ancora quello con la pena di morte, ma basta, la pena di morte è sbagliata, non è, ci sono delle cose che non sono sottoponibili al referendum, meno male, quindi basta, l'80% sarà a favore della pena di morte, chi se ne frega, lo Stato più forte dice no, queste cose non si fanno, se no vai nel Far West, che ti trovi bene, caro ascoltatore. Allora, ma l'avete vista le vicende di della Liguria, Federico? Ma straordinarie, i cinesi che non votano per il cinese, ma dove si è mai visto? Sì, no, ma voglio dire, mi sembra che ormai le abbiamo viste di ogni. Le abbiamo viste di ogni, abbastanza. Questa ci mancava. Allora, primarie in Liguria, vince Raffaella Paita per il PD, per le regionali, ma il cinese, cioè Cofferati, così è soprannominato, accusa. Ci sono stati dei cinesi che sono andati a votare e chissà come mai, perché? Volevo dirvi che mi vengono segnalati numerosissimi casi di violazione esplicita delle regole, l'inquinamento è in corso, molto pesante, non soltanto per voti della destra, ma col voto organizzato di intere etnie, come ad esempio nel caso dei cinesi a Spezia, dei marocchini a Ponente. Insomma, quello che temevamo si sta verificando in misura ancor più consistente di quella che avevo segnalato come un pericolo. Accuse gravi del cinese, Sarubi, il cinese che accusa i cinesi vanno a votare. No, come anche Roma. Non c'è più una primaria del PD che funziona in questo momento. Cioè, il problema delle primarie del PD è che o diventano plebiscito per la legittimazione di un leader che è già stato scelto, oppure non funzionano più. Mm. Faccio l'esempio della Campania. Sì. Adesso si deve votare tra poco per le regionali in Campania. Il centro-sinistra va avanti da quasi un anno con delle autocandidature che legittimamente si sono messe in corsa e che hanno cercato di proporsi, e a un certo punto è arrivato il partito nazionale che ha detto no, basta, niente De Luca, niente Cozzolino, eccetera eccetera, il nostro candidato sarà un candidato unitario che è Gennaro Migliore. E le primarie non le facciamo. Perché le primarie non le facciamo? Perché le ultime primarie si erano chiuse con polemiche, con giudici, con condanne, è successo di tutto e nessuno ha mai saputo il risultato delle ultime primarie del centro-sinistra a Napoli per la regione. Nessuno le ha mai saputo. Staranno contando. Perché ogni volta purtroppo è così, e se anche si vede le primarie per il segretario regionale, quindi non stiamo parlando neppure del candidato alla regione, a Napoli le primarie del segretario regionale si sono chiuse con l'occupazione della sede regionale da parte di quelli che avevano perso, che contestavano la vittoria di chi aveva vinto. La stessa cosa è ripetuta adesso in Liguria e si ripeterà sempre. Succede per esempio ad Albenga, scrive il secolo XIX, 1 migliaio di votanti, la metà dei quali magrebini e indiani. Per carità, Federico. Ma si parla di file di cinesi, sì, che vanno dallo scrutatore per dirgli ho votato, chi è che mi paga? Sì. No, chi è che mi paga? No. Sì, dov'è che prendo la busta paga? Ho appena votato, mi avevate promesso che mi pagavate, cioè cose di questo tipo. È meraviglioso. Effettivamente non si è mai vista grande file di cinesi manco in Cina a votare. Però voglio dire, noi siamo stati in grado di compiere questo miracolo globalizzato. Abbiamo esportato democrazia, esatto. Diciamolo. Pare che Cofferati sia presentato a Palazzo Ducale dicendo: ma ci sono notizie di cinesi qui? E gli hanno detto: no, il primo è lei. Ma è vera, ma è vera questa, scrive il secolo XIX, il primo è lei. Detto questo, io mi chiedo quando mai hanno funzionato davvero queste primarie del PD, perché o sono state una fanfara, perché sì, già si sapeva chi avrebbe vinto, oppure, come nel caso di qualche primaria, insomma, di qualche votazione per i sindaci, sono state un modo per far scavalcare il PD. Ho capito, ma scusa, ma perché noi dobbiamo sempre fare le cose e non siamo in grado di farle? Secondo me le primarie sono anche una cosa giusta. Ma perché dobbiamo sempre fare le cose in maniera sbagliata? Quando facciamo una cosa giusta per principio, la mettiamo in atto in modo sbagliato. Allora, poi dopo la soluzione qual è? Le primarie non servono più, allora togliamo le primarie. No, ma sono anche delle cose legittime, giuste, democratiche, però... che vi devo dire? Comunque, Cofferati promette, Renzi mi dovrà ascoltare. Che succede, Sarubbi? Ma si possono, cioè, potrà il partito dire non valgono certo più? Che si possono annullare. Annulliamole tutte. Certo, questo è chiaro. Anche perché mi pare che Cofferati ieri abbia detto: non finisce qui la storia, perché certo, vado in procura. Quindi a quel punto, quando viene messa in mezzo la giustizia, il partito o non partito, se entrano in mezzo i giudici, poi dopo bisognerà naturalmente fare quello chiaro, che loro dicono. Vabbè, abbiamo un minuto, però qua dobbiamo rifare il Toto Napolitano, perché adesso è la settimana decisiva, non potete scampare. Dai, forza Sarubbi, che registriamo e poi mandiamo tutto. Il tuo presidente della Repubblica sarà Beppe Marotta. Lo voto anch'io. Beppe Marotta, così potete rubare anche dal Quirinale, con l'imprimatur del Quirinale. Ma dai, sì. Non conosce Beppe Marotta, è dirigente della Juve, cos'è? Direttore generale, direttore sportivo, che cos'è? Vabbè, insomma, uno dei massimi dirigenti della Juve. Esatto, sì. Tu, Federico Novella, cosa dici? Beh, oddio, l'ipotesi Marotta ci possiamo anche discutere, insomma, cioè grandi intese su Marotta si può fare, secondo me. Ma non lo so, so che l'ha escluso, però a me uno come Draghi non dispiacerebbe. Mario Draghi, ma dai, il prossimo presidente della Repubblica sarà Prodi, questo è chiaro. Prodi dici? Sei sicuro? No, sono sicuro. Però secondo me, dai, Prodi che vada Putin. Ma dai, su, l'imprimatur di Putin che chiamerà Berlusconi e gli dirà: ma sì, dai, Prodi va bene,

questo è il titolo della Gazzetta. Ma al momento della carta costa, articolo più inutile sui giornali, non ci volevo credere. Gianluigi Beccaria, un'intera pagina sulla Stampa per analizzare, alla vigilia delle dimissioni, il linguaggio dei discorsi di Napolitano. Nelle sue parole niente politichese. Lui non dice nei suoi discorsi che è vecchio e stanco, ma che ha toccato con mano l'età raggiunta e come questo porti con sé crescenti limitazioni e difficoltà. Un parlare mai autocelebrativo. Parla di resterò vicino al cimento. Il lessico di Napolitano! Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua cari ascoltatori. Parleremo certamente anche della Francia, della grande marcia della libertà, questo più in chiusura di trasmissione, ma voglio partire da un tema tutto italiano. Ve la ricordate la vicenda dei vigili urbani di Roma in malattia in massa a Capodanno, dice la leader della CGIL Camusso, ieri intervistata dal Corriere della Sera: io sto con quelli che sono andati a lavorare quella sera. Ma come credete che finirà la questione? Con indagini approfondite come sono state annunciate? C'è anche un fascicolo aperto alla Procura di Roma per capire se qualcuno ha fruito magari di un certificato medico fasullo, se si è appoggiato a qualche medico compiacente, se quelle malattie erano tutte o alcune in parte non vere malattie. Magari si arriverà, perché si potrebbe arrivare anche a questo in caso di casi accertati, a licenziamenti per giusta causa. Non lo so. Ce la pensate così? Secondo me siete degli inguaribili ottimisti. Il timore è che in Italia queste cose finiscano un po' sempre in un po' di fumo e poi niente di concreto. Comunque parliamo di assenteismo nel pubblico impiego e non solo per questa vicenda dei vigili. Qualche notizia dai giorni scorsi dai giornali. Ieri Alex Corlazzoli sul Fatto raccontava di un'indagine di Tutto Scuola nella quale si evince che gli insegnanti in Calabria si assentano in media il doppio dei colleghi, per esempio, del Piemonte. E poi ci sono casi clamorosi. Sui giornali è finita la vicenda di una scuola di Menfi, in provincia di Agrigento, dove su 170 dipendenti, in 70 si dichiarano malati o parenti di disabili, usufruiscono così della legge 104. Sono 3 giorni di permesso al mese per assistere le persone malate. Intanto voglio salutare un professore, avvocato e professore all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Giuseppe Pellacani. Buongiorno, insegna diritto del lavoro. Professore, benvenuto. Molte grazie, buongiorno anche a lei e a tutti i nostri ascoltatori. E saluto anche perché ad Agrigento la vicenda è deflagrata anche con la procura che ha indagato, con la procura che ha portato anche è arrivata anche ad arrestare molte persone, il procuratore di Agrigento Renato Di Natale. Buongiorno procuratore, buongiorno, e grazie per essere qui. Buongiorno. Ad Agrigento è vero che la situazione è particolarmente complicata. Che tipo di indagine avete fatto? Cosa avete scoperto voi? L'indagine definita delle 104 ha portato negli ultimi 2 anni, in un contesto di un unico fascicolo, l'arresto di 17 persone, prevalentemente medici, e ad indagare 84 soggetti che avevano usufruito della legge 104. Usufruito per ottenere sia i 3 giorni di cui lei ha poc'anzi fatto cenno, sia per ottenere assunzioni, trasferimenti e similia, o per cercare di ottenere lo status invalido civile con i relativi benefici. Spesso si dice, procuratore, basterebbe fare più controlli. È vero che dalla procura molti di voi dite: ma i controlli, ho letto questa frase sui giornali, me la confermi, sono le visite mediche, sono un circo. Questa è una definizione utilizzata dal GIP nella sua ordinanza di misura cautelare. Sono un circo, per quello che abbiamo noi accertato, sia con le riprese video, ci davano l'immagine di sanitari che eseguivano gli accertamenti che avrebbero dovuto eseguire i pazienti, oppure con tutta una pantomima anche dopo che l'indagine è iniziata, laddove la procura aveva disposto delle consulenze mediche per accertare se le malattie fossero veritiere oppure meno. No. Ma che mi faccia capire, certo non dobbiamo essere garantisti, ci saranno i procedimenti, ma che può succedere a questi medici? Perché spesso si dice sono i medici compiacenti, per carità non vogliamo mai fare di tutta l'erba un fascio, ma che può succedere a un medico che ha fatto qualcosa? Ci mancherebbe, intanto, adesso non ne ricordo esattamente il numero, sono finiti o nelle patrie galere o agli arresti domiciliari, e successivamente gli ordini professionali possono sospenderli e successivamente ancora potrebbero ottenere dei, in sede di condanna potrebbero ottenere delle sanzioni molto, molto forti, trattandosi sempre di pubblici ufficiali, non medico privato, ma medico che dipende dallo Stato pubblica. È sì, chiaro. Esatto. Questo staremo a vedere. Intanto, professor Pellacani, uno di questi nodi è proprio quello, il legame tra il rapporto tra medici cosiddetti compiacenti, ad Agrigento ne hanno scoperti diversi, insomma, d'altronde la vicenda di alcune scuole nella quale il 40% del personale gode della legge 104, per carità, o sono molto sfortunati lì per cui stanno tutti male o hanno parenti malati oppure c'è qualcosa che non va. Lei però ha scritto un articolo su Italia Oggi che mi ha molto colpito venerdì, a dire in sostanza: guardate che le regole ci sono le regole del ministro Brunetta quando le aveva fatte, ma come finirà la vicenda per esempio dei vigili? Finirà, professore, con tanto fumo o con molto arrosto? Ma io, come ho scritto, temo con tanto fumo. Il tema fondamentale è lo scollamento tra le regole che stanno scritte e la loro applicazione effettiva. Le regole sono state scritte da Brunetta in poi, sono regole piuttosto pesanti, sono regole che prevedono sanzioni penali, sia in carico ai dipendenti che utilizzano false attestazioni mediche, sia in capo ai medici che rilasciano attestazioni false. Ma poi ci sono alcuni temi che valgono sotto il profilo pratico applicativo. Uno di questi temi è quello che è stato appena adesso da voi evidenziato, cioè che possono esserci effettivamente delle collusioni tra il visitato e il medico che effettua la visita. Ma anche al di là di quello c'è un secondo tema, che molte malattie non sono facilmente diagnosticabili. E se uno sì. Si presenta con una gamba rotta è facile accertare anche ex post se ha la gamba rotta o meno, ma se uno si presenta con una cefalea dal punto di vista diagnostico è estremamente complesso. E questo è un gran classico: ho mal di schiena, ho mal alla testa, ho vertigini. È così. E molto quindi, spesso. Ma perché dice che finirà tutto in fumo? C'è la procura che indaga, c'è il governo che annuncia assolutamente no, c'è un'indagine all'interno del Corpo dei Vigili Urbani di Roma. Io dico che sarà così sicuramente, perché immagino un pochettino. Scoprire oggi che una malattia attestata ormai 12 giorni fa era effettiva o non era effettiva, cioè se anche quella malattia ci fosse stata e uno avesse avuto davvero l'influenza il 31 di dicembre, il 1 di gennaio, oggi quel soggetto, se quella malattia aveva allora, è già guarito, quindi fare un'indagine ex post è impossibile, è come mettere l'autovelox dopo che le macchine sono passate sull'autostrada, una volta che sono passate quella velocità non la si rileva più. Effettivamente sì, non è facile. Procuratore Di Natale, le chiedo questo: il provveditore agli studi di Agrigento, Raffaele Zarbo, credo abbia concluso questo censimento sui beneficiari della 104 a dire: in provincia di Agrigento 1043 docenti su 4031 della scuola dell'infanzia e 469 su 1823 dei personali ATA godono di questa legge 104. Ma che succede in provincia di Agrigento? Sono tutti così sfortunati ad avere un parente malato? Beh, questa è una domanda alla quale io in teoria non ho titolo a rispondere, perché il nostro lavoro, ho preso atto di questi numeri che sono tra virgolette drammatici, se fossero veri, nel senso se le patologie fossero vere, noi dobbiamo intervenire, interveniamo non in funzione di supplenza, contesto in cui altri non intervengono, ma soltanto laddove ci vengono evidenziate delle anomalie nelle situazioni dei pubblici dipendenti, e allora in quel caso interveniamo, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno della pubblica amministrazione, ma verrebbe devoluto ogni controllo, ogni attività alla magistratura, cosa che non risponde alle regole del nostro Stato di diritto. Questo certamente. Mi riesce a quantificare, non economicamente, ma dal punto di vista ovviamente da funzionario dello Stato, cosa vuol dire un'assenza o delle problematiche di questo genere? Perché sa, la quantificazione economica io l'ho letta nei giorni scorsi sui giornali. Confindustria, per esempio, ha quantificato che se si abbassasse il centro studi Confindustria, se si portasse l'assenteismo del pubblico impiego ai livelli delle aziende private associate a Confindustria, si recupererebbero 3,7 miliardi di euro. Non vuol dire azzerare l'assenteismo, ma portarlo a un livello considerato normale. Dal punto di vista invece di procuratore, cosa vuol dire, anche avendo scoperchiato quello che avete scoperchiato, quanto paga lo Stato questo tipo di scandalo? Io non sono in grado di dare questo tipo di risposta. C'è il cellulare che ci ha un po' abbandonato. Ci aveva detto il procuratore che era una zona dove si sentiva poco. Allora facciamo così, andiamo a sentire un attimo di pubblicità, poi riprendiamo, perché il professor Pellacani tra l'altro ci ha detto e ha scritto in questo articolo che ci sarebbero delle regole tre da applicare subito per una soluzione, perché vogliamo anche dare una soluzione pratica da chi pensa di averla. Ci raggiungerà anche un professore siciliano che fa parte è presidente dell'associazione Insegnanti in Movimento. Lui ogni giorno fa 200 chilometri per andare a insegnare, ed è un'associazione che ha voluto denunciare per primo dall'interno la maggior parte di tutti quegli scandali di chi usufruisce per esempio di permessi premio o di permessi non veritieri, scandali che poi sono anche sfociati in indagini della procura. Tra poco 24 mattino. Ma adesso c'è anche la pubblicità sull'assenteismo, poi mi accusano di fare... No, è casuale, non controllo la pubblicità di Radio 24, ecco, mettiamola così, cari ascoltatori. Alle 8.36 minuti siamo qui con il professor Giuseppe Pellacani, che insegna diritto del lavoro a Modena e Reggio Emilia. Voglio salutare anche Domenico Navarra, che è insegnante. Buongiorno Navarra. Buongiorno. Lei presiede l'associazione Insegnanti in Movimento. Intanto lei è di Sciacca ma insegna a Palermo, quanti chilometri fa ogni giorno? Io esattamente sono a San Giuseppe Ato, vicino Palermo, sì. Faccio quasi 200 chilometri al 200 giorno. Chilometri al ma giorno. Ma consideri che io sono un agevolato, perché ci sono persone che lavorano a Venezia, a Milano, nell'associazione, che sono completamente, sono al nord. Beh, però almeno stanno lì, diciamo, sono lontani da casa, però non fanno... Ci sono persone che fanno anche più chilometri, fanno anche 300 chilometri al giorno, cioè anche più, vanno a Catania. Senta, è chiaro, lei ha detto che la sua associazione è pronta a costituirsi parte civile nel processo di cui ci parlava prima il procuratore Di Natale. Perché? Cosa succede? Cioè, cosa dal di dentro lei, cosa ha visto fare di questa legge 104 all'interno del mondo della scuola? Allora, la cosa più eclatante, a prescindere dai numeri che ci sono attualmente, che sono quelli di cui avete parlato, l'escalation delle 104. Noi denunciamo il fenomeno da 10 anni. Dal 2008 a oggi siamo passati da una percentuale del 4-5% di insegnanti con 104 al 40%. Quindi c'è stato veramente in questi ultimi 6 anni una richiesta di 104 abnorme, è semplicemente dovuta a quello, questo noi denunciamo, sicuramente dovuta all'impossibilità di ottenere il trasferimento. Il problema nostro è questo, l'assenteismo sicuramente, i 3 giorni di permesso creano un danno all'utenza e allo Stato, ma quello che danneggia noi è l'impossibilità di ottenere un trasferimento. Ah, perché se uno gode della legge 104 non può essere trasferito, quindi questo è un aspetto fondamentale. No, la 104 dà la precedenza assoluta, in base anche se hai 0 punti, hai la precedenza assoluta per cui puoi ottenere il trasferimento. Ah, okay, contro perfetto. Chi ne ha 10 anni di servizio di ruolo, per cui ha 200 punti e non ha possibilità, perché viene praticamente sbarrata la strada. Quindi secondo lei viene utilizzata soprattutto per questo, soprattutto più che altro? Soprattutto viene utilizzata per ottenere il trasferimento, per rientrare in provincia, avvicinarsi a casa quindi. E non solo, c'è il discorso anche dei 3 giorni, quindi questo beneficio di utilizzare i 3 giorni al mese per assistere o per assentarsi per cure personali, per chi ha 104 personale, perché dobbiamo distinguere tra articolo 21 e articolo 33. Sì, chi ce l'ha a livello personale e chi deve assistere. Chi ce l'ha personale e chi è per assistenza. Quello che noi denunciamo è proprio l'articolo 21, cioè chi ce l'ha, chi è considerato handicappato, sì. chi ha l'handicap, perché stiamo parlando di una malattia invalidante e progressiva. No, però lei mi ha detto un dato sul quale vorrei coinvolgere anche il professor Pellacani, cioè dal 4-5% che era nel 2008 di percentuale della provincia di Agrigento al 40%. In alcune classi dipende, classi di concorso più chi meno, abbastanza incredibile. Siamo arrivati a questo 30% complessivo di abbastanza incredibile. Però professor Pellacani, lei nell'articolo dice che una soluzione, o meglio 3 soluzioni, e vorrei che le spiegasse ai nostri radioascoltatori, ci sono, cioè cose che si possono fare per contrastare questo assenteismo fittizio. Io penso di sì, poi tutte le soluzioni come sempre sono più facili da scrivere e meno facili da applicare. Io credo che 3 punti critici siano: il primo, la questione dei controlli, che devono essere effettivi ed immediati. Un secondo punto è quello delle sanzioni, anche in questo caso deve trattarsi di sanzioni effettive, perché tra tanti distinguo nella questione delle malattie le sanzioni effettive, poi se rimane qualche secondo lo posso anche spiegare, non sono. E il terzo aspetto è quello di sgombrare il campo da ogni dubbio, in vero una legge piuttosto vecchiotta c'è, ma sgombrare il campo da ogni dubbio sul fatto che chi dispone poi il provvedimento sanzionatorio punitivo non è chiamato a risponderne nel caso che il soggetto punito vada in giudizio e vinca, perché altrimenti nessuno adotta una sanzione se rischia poi di pagare di tasca sua. Sì, quindi queste potrebbero essere, però voglio dire, sono 3 cose aggiuntive, perché lei ha detto che in realtà le regole già ci sono. Sì. Dove è allora? L'applicazione è l'applicazione, sì, ma l'applicazione, a me questa cosa quando succede in Italia fa venire il mal di testa veramente. Perché cosa vuol dire che ci sono delle norme ma non sono applicabili? Guardi, gliene racconto solo qualcuna, giusto anche per far capire dove sta il tema. Ci sono delle sanzioni, ad esempio in tema di mancata presenza alla visita di controllo. Sì. Queste sanzioni sono la perdita di una parte della retribuzione per un certo periodo di tempo, 10 giorni e così via, più pesante alle successive visite di controllo. Quindi uno viene pescato a casa che non c'è o che non è effettivamente in malattia, perde una fetta di retribuzione. Dopodiché si presenta ad una visita medica il giorno dopo e se alla quella visita medica il medico dice ma sì, effettivamente c'era, è venuto, ma ha raccontato che ha il mal di testa, la sanzione decade da quel momento in poi. Mm-hmm. Un secondo tema è il tema dei controlli. Il tema del controllo è che il controllo va disposto, il dirigente in caso di malattia è tenuto a disporre il controllo, ma solo in casi particolari, cioè quando l'assenza precede o segue un giorno festivo, il lunedì. Sì, giusto per capirci. Sì. Ma se il soggetto viene trovato presente al controllo, un controllo successivo non può venire disposto, questione di spending review. Quindi sì, una volta che uno è stato controllato una volta nella stessa malattia, basta, un secondo controllo non è più possibile. Vabbè, insomma, mi ha fatto capire che mi ha fatto capire come le norme ci sono, ma immagino. Sentiamo Antonio da Lecce che ci chiama. Antonio ci chiama l'800 24 00 24. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno Milan, buongiorno a tutti naturalmente gli esperti che sono intervenuti. Io non vorrei buttarla come al solito sul qualunquismo, ma credo che sia sempre una questione morale, una questione personale. Io sono un medico e vorrei testimoniare, ma proprio ad alta voce, il mio rifiuto costante a certificare quello che non si può certificare. Insomma, ognuno di noi si fa un esame di coscienza e rifiuta anche di intervenire e di convalidare con il proprio atto una pratica, un mal costume, un malvezzo così diffuso, oppure siamo sempre alle solite, bravi a lamentarci, spariamo nel mucchio. Oppure Antonio, il suo discorso non fa una grinza, oppure se qualcuno, medico, giornalista, avvocato, professore, docente universitario, professore, sbaglia, viene beccato, viene punito. C'è anche questa cosa. E marcio proprio fino in fondo. Io vorrei dirle soltanto questa ultima considerazione. Nel lontano 2000 fui chiamato dal tribunale per una perizia come consulente d'ufficio per il tribunale, e quando convalidai il fatto che il cliente in esame non avesse nessun postumo, ricordo allora fui chiamato in disparte da un cancelliere che mi disse: ma guardi dottore, così a lei non la chiama più nessuno, non farà più perizie, e questa è tutta una ruota, bisogna farla girare, e questa è la verità. Siamo in Italia, caro Antonio, siamo in Italia, la ringrazio. Andrea a Venezia da Francesco, buongiorno caro Francesco. È caduta la linea. Allora, Domenico Navarra, lei da quanti siete voi nella vostra associazione di insegnanti che si battono per cercare di fare chiarezza contro chi abusa di questa legge 104 e non solo? Sì, attualmente siamo 200, ma il gruppo su Facebook è composto da 1000 persone che stanno E come vi accolgono nel mondo della scuola? Come dei rompicoglioni? Bene, perché sì, qualcuno sicuramente non ci vedrà molto bene. Ma la maggior parte, le assicuro, che ci danno forza, perché la lamentela viene da tutto il mondo scolastico e l'agrigentino, e non solo, perché abbiamo anche associati di Palermo, Trapani, Caltanissetta, tutta la Sicilia occidentale. E ci danno forza perché sono stanchi degli utilizzi del 104, perché consideri che la 104 non va a intaccare solo i trasferimenti e i 3 giorni di permesso, ma poi continua all'interno degli istituti, in quanto chi ha la 104 non può essere perdente posto, cioè non può perdere il posto di lavoro, non può essere trasferito d'ufficio. Quindi praticamente ovviamente ci sono molte vittime di questo beneficio. Insegnanti che sono nelle scuole da diversissimi anni si trovano a essere perdenti posto, devono lasciare quella sede perché vengono praticamente scavalcati da persone con meno punteggio ma che hanno la 104. La 104 è una corazza che ti dà un'inamovibilità assoluta, quindi non puoi essere spostato, hai un beneficio su tutto, sei prima in graduatoria. Questo lo capisco, ma per dare la legge 104, io lo so anche per esperienza, ci sono delle procedure abbastanza stringenti, non è che è una cosa, non so, professor Pellacani, è una cosa che si, almeno io avendola fatta a Milano, non è facile, non è una cosa che voglio dire che in un giorno il beneficio della legge 104, è una cosa abbastanza complicata che ha delle procedure, bisogna andare all'INPS, bisogna fare dei controlli, bisogna produrre dei documenti, bisogna produrre dei certificati, professor Pellacani, no, non è così. Assolutamente sì, è così. Anche qua è un po' un tema di effettività, e credo che anche in qualche misura la collocazione geografica, cioè la capacità delle sedi poi di fare delle verifiche effettive fin dal primo momento, cambi moltissimo dal punto di vista territoriale. Mi ha molto colpito quello che il dottor Navarra diceva, cioè mi ha molto colpito l'aspetto che chi abusa di questi strumenti, che se usati correttamente sono strumenti giusti, cioè intendiamoci, non è che la legge 104 sia sbagliata, è giustissima, è l'abuso che è sbagliato, e questo abuso cade sulla pelle dei colleghi per bene, cade sulla pelle degli utenti, quei furbetti più o meno, in base a quanti sono, da qualche parte molti, da qualche parte pochi, fanno un grandissimo danno alla società. Questo sì, mi faccia capire in conclusione, professore, allora con la vicenda dei vigili di Roma, visto che si è partiti, lei finirà in un nulla di fatto. Lei, assolutamente sì. Lei è abbastanza sicuro. Ma finisce per forza in un nulla di fatto. vedere le cose esposte è impossibile. È impossibile. Dico, come fare la foto con l'autovelox due giorni dopo che la macchina è passata, è impossibile. È impossibile, bene, è allora impossibile. Bene, si fa per dire. La ringrazio, professor Giuseppe Pellacani, così come ringrazio Domenico Navarra dell'Associazione Insegnanti in Movimento e il procuratore di Agrigento Renato Di Natale che sono stati con noi. Dopo il traffico voglio già salutarle, ci tufferemo in quella che è stata ovviamente la straordinaria manifestazione per la libertà a Parigi, che ha coinvolto non solo gran parte della Francia ma tutto il mondo. Intanto saluto Marc Semeau del quotidiano Libération. Buongiorno Marc. Buongiorno. E benvenuto. Ti chiedo un attimo di pazienza, il traffico, e sono da te. 24 mattina. Allora, Libération non è un giornale, non è solo un giornale importante in Francia, è anche il giornale, siamo con Marc Semeau, che in questi giorni accoglie i redattori, i giornalisti, i colleghi della rivista Charlie Hebdo, che è stata così duramente colpita. È così, Marc? Sì, assolutamente, è che è un atto di solidarietà elementare, essenziale. Già nel 2011, quando la loro sede è stata devastata da un incendio dopo un attentato già islamico, li avevano accolti per un po' di mesi, fino a quando trovassero un nuovo locale, che è quello dove è successo la strage di mercoledì. Dunque è normale, siamo un po' cugini, anche non siamo lo stesso tipo di giornale, noi siamo un quotidiano di informazione generale, loro settimane satirico, però diciamo i valori che difendiamo sono abbastanza gli stessi. Soprattutto la laicità, il diritto al blasfemo, il diritto all'ironia, il diritto alla derisione. Certo, la parola che è stata più utilizzata anche dai giornali di oggi in Italia, immagino anche in Francia, è liberté. Ieri c'è stata questa manifestazione per il diritto alla libertà e milioni di persone sono riversate in Francia, anche decine di capi di Stato. A me ha colpito un po', Massimo, non so se è lo stesso tuo convincimento, non ho visto leader di stati islamici presenti, sarebbe stato, non ne ho visti tanti. Un po' sono stati, c'è stato il re di Giordania, c'è stato il primo ministro tunisino, c'è stato anche il primo ministro turco. Ahmed Davutoğlu, che ha anche fatto un po' di polemica, perché vedere questo primo ministro islamista, conservatore, lì nel corteo per la libertà della stampa, la libertà di critica di un paese che in materia di diritti di giornalismo è molto all'avanguardia. La stessa cosa peraltro che c'era certi presidenti africani, tipo del gabonese Ali Bongo o il ministro della Fareste russo Sergei Lavrov, che erano lì, anche peggio che in Turchia, paesi che non rispettano molto la libertà di critica. Quindi ci sono stati. Erano lì, dunque. Forse, non lo so, questa è una delle tematiche che è stata affrontata, cioè la solidarietà lanciata da molti e la mancata solidarietà da altri paesi, che forse sarebbe stata ancora più accetta. Soprattutto per motivi ovvi, era una solidarietà europea, che sono stati sia Angela Merkel, sia Matteo Renzi e David Cameron, il britannico, che hanno lanciato questo movimento, tutti gli europei erano stati lì, e questo era molto importante, perché era, diciamo, tutta l'Europa era lì. L'Europa che conta, questo sì. Sì, appunto Matteo Renzi ha avuto una bellissima frase dicendo abbiamo una moneta comune, dobbiamo anche avere organizzazioni comuni di fronte al terrorismo, e che lì appunto era un simbolo forte. Aiutaci per capire i due cose per concludere. Intanto, perché Marine Le Pen non era presente, e secondo te se è stata una decisione giusta? Non era presente perché non è voluto venire. E se non è voluto venire sapeva che avrebbe fatto molto polemica. Dall'inizio, quando dopo la strage, che si parlava della manifestazione, la polemica è stata su questo: viene o non viene il Front National in questo. Allora, tutta la parte dicevano che il loro fatto che venissero era un scandalo, perché sono islamofobi, sono razzisti, sono di estrema destra, e dunque sono i valori totalmente opposti a quello di Charlie, che sono cose vere. D'altro canto, altri dicevano no, questa è la più bella vittoria postuma di questi che sono stati ammazzati, di obbligare a sfilare insieme Marine Le Pen accanto a le organizzazioni musulmane, perché lei ha detto non sono stata invitata, ecco, poi bisogna capire appunto. E mio avviso, anche il giornale eravamo molto divisi su questo. Io faccio parte di quello che diceva che era meglio che loro andassero, appunto, che era in un modo la vera vittoria, una delle vittorie del postume di Charlie. E per concludere, si parla delle polemiche, o ci sarà spazio magari nei prossimi giorni, delle eventuali falle dell'intelligence francese in quello che sta... Sono i problemi che dappertutto, è stata la stessa cosa nel 2015 in Gran Bretagna dopo gli attentati di Londra, gente sono stati individualizzati come essendo stati in Yemen, eccetera eccetera. Dunque quando tornano sono un po' sono sorvegliati, però li sorvegliano un anno, due anni, non fanno niente, perché infatti loro sono abbastanza furbe, e dopo la sorveglianza si leva. Lì c'è un problema di effettivo, cioè basta vedere, sono 1000 francesi che sono stati in Siria. E questo è un problema. Dunque, sorvegliarli tutti sarebbe... Dunque sono 20 persone al giorno per una sorveglianza costante, supera già il numero degli agenti disponibili del servizio di sicurezza interna. Se mettiamo a tutto questo quelli che non vanno lì, come ha detto questo Koulibaly, l'altro killer di queste recente strage, dicendo io non sono stato in Siria per non farmi notare e poter preparare le mie cose, globalmente sono 4-5 mila persone che sono a rischio per farsi semplice, non abbiamo i mezzi per controllare tutti, e lì c'è il problema maggiore. E questo chiaramente è così. Grazie a Marc Semaud del quotidiano Libération, ma noi rimaniamo in Francia, perché come sapete noi ogni giorno invitiamo un ascoltatore che ci chiama e ci ascolta dall'estero. Oggi abbiamo Giulio, che è proprio lì a Parigi. Giulio, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Tu sei sceso in piazza come tanti francesi. Sì. Che clima c'era? C'era un clima, devo dire, di grande unione. È riuscito questa serie di attentati a unire molto, anche fronti molto diversi, anche entità che erano molto attaccate, molto lontane, da Charlie Hebdo, la Chiesa, la polizia, forze politiche che mai si sarebbe detto che sarebbero state unite in questo modo. Ma infatti questa unità, diciamo, è stata raccolta poi da tutti i giornali. Tu che ci fai a Parigi? Perché sei lì? Io sono qui per un dottorato di ricerca, lavoro all'università. E avevo iniziato in Italia e poi ho avuto l'occasione di muovermi qui a Parigi, alla Sorbona, e l'hai colta al volo, come dire. Anche il mondo universitario molto difficile in Italia. Dici in conclusione che ne pensi dell'Italia vista da lì, da Parigi? Devo dire che qui rispetto all'Italia c'è molta più mobilità e molta più non si viene considerati giovani fino a 40 anni, ci riescono a dare più un po' più di fiducia e più responsabilità fin da un po' prima. Grazie Giulio, a domani.